Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara. Vai là, veloce anche. Vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì. Non ascoltarmi, te lo ordino. È un mio diritto. Ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te. Ho il pieno diritto. Vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Fra poco, David Parenzo, abiti a Roma, potresti rimanere in una città senza mezzi pubblici, senza illuminazione. La celariccia. Così minaccia il sindaco, blocco la città se non mi date i soldi. Devo dirti la verità, a me tutti questi sindaci che minacciano di bloccare la città perché non ricevono i soldi, invece di cominciare a tagliare le spese, invece di cominciare a risparmiare un po'. Beh, mi fanno impazzire questi sindaci. Tagliate, risparmiate, perché Roma, la bicicletta, scusa, Roma è la città degli sprechi. ATAC, le aziende comunali, è pieno di parassiti. Tagliate, no. E poi sì, no, e poi lamentatevi. Di generalizzazione, è pieno che... di parassiti, è pieno di gente assunta a UFO, capito come si dice? Mangia pane a UFO. Assunzioni clientelari, no, a centinaia, no. Stai a Marcamale, a Crugiani. Ma quando mai? Stai a Marcamale. Aziende decotte, fallite, che lui non vuole nemmeno privatizzare. Ma che c'entra, lui è appena arrivato, a me non è che sta simpaticissimo. Intanto, la bicicletta, va a lavorare, che la bicicletta, scusa. Intanto risparmiasse. Guarda che sole, va. Che è sortito nanni, che profumo de rose, de garofani e panse. La mia risposta è molto chiara. Io ce la fanno tanti. Io da domenica blocco la città. Dica una cosa precisa. Quindi le persone dovranno attrezzarsi, sfortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare, i romani invece non potranno girare fin quando. Allora, la domenica si blocca Roma. Non posso fare andare i bus a soffio. Mamma mia. Non voglio fare lo spiritoso, ma non sono capace di mettermi lì la mattina a soffiare e far andare gli autobus a soffio. È chiaro che gli autobus si devono fermare. Non ho i soldi per pagare gli stipendi degli impiegati comunali. Non ho i soldi per aprire gli asili nido. Non ho i soldi per fare la pulizia della città. Ma tutto questo è un ricatto, non è vero? Infatti Renzi è piuttosto irritato. Poi pare che le cose si siano sistemate, eccetera. Cioè, dite, o mi date i soldi oppure non apro gli asili nido. Ma non è vero, una volta Veltroni, anni fa mi ricordo, disse: se non mi danno i soldi per Roma, c'era uno dei soliti decreti da approvare, dei soliti stanziamenti dello Stato per i comuni, le metropolitane non potranno più andare, le illuminazioni non ci saranno più. Dai, su, ancora Marino, posso risparmiare ma non so come Mago Zurlì. Abbiamo creato la centrale unica di acquisti che ci permetterà di economizzare, di risparmiare 280 milioni di euro l'anno. E questo è quello che può fare un amministratore. Sindaco. Io non sono il Mago Zurlì. Vittorio Feltri e l'omicidio di Perugia di Meredith. Una detta grossa, eh? La sua tesi è questa. Sentitela, aveva di fronte Raffaele Sollecito, condannato per l'omicidio. Perché lui doveva ammazzare questo tipo? Allora, perché doveva ammazzare... La volevi scopare? Non lo so, chiedo. Alla dottoressa, sinceramente, lo vorrei chiedere alla dottoressa. Ha senso. Non ha senso incriminare questo giovanotto per un delitto che non si sa bene. Ma perché doveva farlo? Uno si stava laureando, stava facendo la tesi. C'aveva una fidanzata bellissima, va a scopare questo qui che non era neanche eccezionale, vogliamo dire. Sicuramente è una ragazza carina. Non lo so, ma voglio dire. Te la volevi scopare, non era eccezionale. Agghiacciante. Ma quale agghiacciante? Vabbè, ne parliamo. Ha detto tempo. Quello che pensava. Abbiamo tempo, no? Abbiamo tempo. Sì, mi piace molto la frase abbiamo poi tempo. Poi dice dovevi... Ma dici anche alle 20:50 abbiamo tempo sempre quando è tutto finito. No, abbiamo tempo. Dovevi rimanere a Santo Domingo. Io fondamentalmente, se nessuno sapeva che ero andato a Santo Domingo, io ero una persona normalissima come uno di tanti di voi che si fa una vacanza di 20 giorni. A Santo Domingo, dico. Ma scusate, io alla fine ho una famiglia, tu ho degli amici. Tu gli avresti consigliato? Ma di... certo, ma se sta a Santo Domingo è sempre meglio che in Italia, che fa schifo, tra l'altro, no? Ma scusa, scusate, ma perché devi tornare qui a farti siamo italiani, allora facciamo tutti quanti un barcone, tutti quanti insieme ce ne andiamo. Cioè... No, è istigazione, è una considerazione. Io e alla fine sto combattendo perché mi sento innocente. Poi a un certo punto si scorda il nome della vittima, Meredith. Qui c'è una vittima, come si chiama? Qui c'è una vittima, che è quella signorina che non ricordo neanche Meredith. Come Meredith. Si chiama. Meredith, che è morta. E quindi va rispettata, bisognerebbe trovare i colpevoli. Ma pur di trovare un colpevole, mettiamo in carcere altri due innocenti, il risultato è tre vittime, anziché una. Ma vi sembra giustizia questa o schifezza? Per me è una schifezza. Oh, a Linus questa mattina scappa una cosa. Cruciani in confronto a Feltri sembra un'educanda. Signor Linus. Linus, sì. Radio DJ. Poi c'è il caso Feltri. Il caso Feltri. Non diciamo niente, vi dico soltanto che Vittorio Feltri fa impallidire a Francesco Cruciani, a Giuseppe Cruciani, Cruciani e Marco Mazzoli. Cioè, ormai i loro programmi sono programmi da educande. Questo è Cruciani. Ne parliamo dopo questa canzone. Era Savino quello, eh? Vabbè. Più bello però Francesco Cruciani. Senti, sì, Francesco. Io da oggi posso chiamarti Francesco Cruciani? No, da oggi per me è Francesco Cruciani. Ma smettila, dai, più smettila. Bello Giuseppe. Francesco. Ma okay, no, io preferisco Francesco. Giuseppe a Francesco. No, andiamo avanti. Che preferisco Giuseppe. Francesco? Ma senti Lucci con Lupi. Ah, certo. Senti Lucci alle prese con il ministro. L'ho visto Lupi ieri. Strepitoso. La vita va avanti. Ah, ministro! Ma perché proprio te alle infrastrutture? I problemi incalzano. Dovresti sapere che per i trasporti c'è un problema enorme. Tutte le mignotte stanno sulla Salaria. Uno che fa l'Appia da Roma a Brindisi, come deve fare? Ci pensi a ristrutturazione del servizio? Ci mettiamo l'alta velocità. Mi raccomando, eh. Senti con Del Rio che c'hanno c'è un problema. Senti con Del Rio che ha 9 figli. Non si capisce perché. Metteci la buona parola. Uno non possa fare. A Del Rio, mamma mia, ma 9 figli. Ma sì. Le domande che vuole al sottosegretario che ha 9 figli. Ma se tutti facevamo come te in Italia eravamo alla Cina. Ma lo sai che i figli sono una risorsa dell'economia? Capito, ho capito, ma non è che mi importa che scopi poi far figlio. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Vabbè, ce ne sono altri poi, ce ne sono altri. Why don't you go? Marino, taglia, risparmia prima di piangere. Oh, la politica non c'è niente, stiamo aspettando qualcosa da Renzi. C'è Mineo, signor Mineo, senatore Corradino, Mineo. Corradino Mineo. Anzi, sì. No, dopo, Mineo no. Mi annoia profondamente. I grillini pure mi annoiano da morire. Come questa storia dei... Basta, non ne posso più di sentire i grillini. E i 15 giorni dati al signor D'Ambrosio? Sì, 15 giorni a D'Ambrosio che ha dato uno schiaffo, una comitata lì alla deputata dei 5 Stelle. Gli altri invece hanno preso alcuni... 8 giorni, altri... Espulsione, un DASP, una sorta di DASP questo. Non mi molesti moschito. Annarella, dai. Why don't you go? L'hai visto questo nuovo governo? A te ti è piaciuto? A te? A me no. Perché? È perché sì, perché Renzi è messo su da Berlusconi e da Baffetto, là, da D'Alema. Renzi messo su da Berlusconi e Baffetto D'Alema. Ma è con noi! È con noi per parlare del caso Roma e di altro. Il mio amico Gianluca Buonanno, Lega Nord. Ciao. Come ciao, andiamo? Amici miei. Come andiamo? Come andiamo? Che c'è, Parenzo? No, volta... dico che amici hai. Comunque va bene. Perché? Qual avanti. È il problema? Io non mi vergogno di. Musica del circo! È arrivato in città. Forza, Parenzo, come sempre. Salta, senti, salta Parenzo. Nel cerchio di fuoco, Buonanno, salta. Ti devo dire questo, che una signora l'ho trovata qualche giorno fa, mi ha detto, mi fa una cortesia, la prima volta che è ancora ospite della Zanzara, può dire questo a Parenzo? Ho detto, cosa? Mi dica di andare a fare in... In? Culo. Ah, questa signora ti ha detto questo, no. Onorevole sì, Buonanno. Certo. Ti dico la verità, mi ha detto, mi sta troppo sulle balle quella persona lì, ma è talmente invidiosa che dice solo cose brutte e cattive. Questo invidiosa, mi ha detto questa signora. Sì. Lui si è fatto portatore del messaggio di una signora, di un'ascoltatrice della signora, Zanzara. Dai. Scusa. Intanto, caro Buonanno. Ho cercato di difenderti però, Parenzo. Beh, sicuramente. Ho detto, ma no, sì, in effetti è un po' stronzo, ma non tanto. È peggio, mi sembra. Scusa, Gianluca, ma diciamo la verità. Diciamo la verità, tu che faresti sentiamo, con Roma? Con Roma cosa faresti tu? La prima cosa che faresti con Roma, che cosa? Manderesti Nerone, che faresti? No, io sarei contento se il sindaco attuale si buttasse giù nel Tevere. Mi dispiace per i pesci e per i topi, ma sarei contento perché è ora di Ma perché ti dispiace per i pesci e per i topi, scusa? Perché un sindaco che viene a dire se non mi danno i soldi io mi faccio commissariare, non voglio fare il sindaco. Ma perché? Quando ha fatto la campagna elettorale non sapeva com'era il bilancio di Roma. No, ma voglio capire quando i topi, voglio capire i topi e i pesci, scusa. Perché, perché nel Tevere ci sono i pesci, ma mi dicono che ci sono anche in alcuni punti del... Ah, voglia, è pieno di pantegane. Di top, in tutti i fiumi, appunto. Non solo quelli di Roma. Mi dispiace per loro perché uno che fa così è un senza coglioni, cioè fai il sindaco, ti prendi... gioie e dolori, diritti e doveri, e quindi. Ma dice che blocca Roma, dice che blocca Roma da domenica. Ma lo facesse. Vabbè che Roma è già bloccata perché sembra, l'ha detto Verdone, ma io sono d'accordo con lui. Che sembra? Sembra Kabul, piena di buche, traffico da Nuova Delhi. No? Cioè, ma com'è sporca? Città, tu la che città più bella del mondo, aggiustata malissimo, colpa degli amministratori. Quindi io non ce l'ho con i romani. Ma è anche colpa dei romani, secondo te, di la verità. Cioè, di la verità, qualche difetto. I romani scelgono gli amministratori, quindi un po' di mea culpa se lo devono fare. Ma com'è Roma? Come la trovi tu che vieni dal nord ogni tanto? Sporca, caotico, un casino. A parte bella, sappiamo che è bella. Come la trovi? Bella, secondo me è una città bellissima, un museo però, all'aperto, fantastica. È invivibile. Però potrebbe essere 10 volte più attraente e più vivibile, non lo è per colpa evidentemente di chi amministra, che non è capace di fare quello che deve. Figuratevi che mi hanno anche detto proprio stamattina una TV di Roma, sembra 56, c'è canale 56, ma perché cioè, perché così con Roma, ce l'avete con Roma, ma non è Roma di per sé. Ma Roma, la capitale, deve avere delle cose in più. Infatti, tutti i comuni d'Italia hanno il patto di stabilità, cioè delle regole per cui anche se i soldi non li puoi spendere, Roma è l'unica che non ce l'ha. Roma prende soldi che altri non prendono e sono ancora lì pieni di debiti. Un attimo solo. Cioè, vogliono quasi un miliardo di euro. Sì, c'hanno un sacco di debiti del passato, vogliono ancora soldi. Però sono arrivato nel 2008 in Parlamento, che... ci fu la sconfitta della sinistra perché ricandidarono. Ma come lo consideri tu, Marino? Come lo consideri? Guarda, ti dico una cosa che ho sentito in Parlamento dimmi. Da due di sinistra. Sì, ma lo so anch'io, lo so, dimmi. Marino fa rima con cretino. Addirittura? Sì, sì. Ma tu pensi davvero che è un cretino? No, non lo conosco, l'ho visto solo una volta in una trasmissione, però ti dico, nella trasmissione dove eravamo ospiti insieme, non era ovviamente ancora sindaco, faceva il senatore, era accompagnato da una persona e la prima cosa che ha chiesto quella persona fa: prendi informazioni su questa persona qua che non so chi è, ero io, no? Cioè, ma non so, se uno si preoccupa così, sono a posto. Vabbè, dopodiché condividi quello che hanno rubate tutte. Condividi quello che ha detto, che hanno detto questi qua di sinistra, cioè Marino fa rima con, condividi, sì. Ma se lo dicono loro che lo conoscono, io non è che posso dare questo giudizio. Però ieri ho visto, faccio un'altra pubblicità come avete fatto voi, le Iene, il servizio del socio assistenziale, dove intervistavano dipendenti del comune di Roma, devono prima con i video fatto sì. vedere che timbravano, poi uno andava a messa, l'altro andava a fare la spesa, l'altro andava in giro, e ce n'era una che diceva, si è fatto intervistare nell'ufficio, che era più di 2 anni che non lavorava, cioè che andava nell'ufficio e non gli davano niente da fare. È così, traffico. Andavano dove c'era la gente, gli dicevano: c'è troppa gente, non abbiamo il personale. Traffico. Che carogna che siete, vabbè. E ancora a casa, Simo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Luciano Moggi e le donne di Renzi. Sentite cosa ci ha detto ieri. Renzi mi piace, le sue donne di più, però. Il vero Moggi, il vero Moggi. A me Renzi mi piace, non è che Renzi mi piace, le donne magari piacciono più di Renzi. Mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo. Siamo con Gianluca Buonanno, Lega Nord, che tuona contro Marino, contro il sindaco di Roma che chiede soldi. E piange poi Marino. Eh? Piange. Adesso brutti e cattivi quelli della Lega. Ma chi te l'ha fatto fare il sindaco? Svegliati, risolvi i problemi. Gli ha rubato le biciclette elettriche, adesso mette le auto elettriche. Ma che razza di amministrazione hanno? C'hanno il capo, l'ex capo dei vigili che adesso l'hanno sistemato. Sì, sì. Ogni volta che. E poi hanno, lo sapete questo, tra trasporti, immondizia e acqua, l'85% delle municipalizzate d'Italia, l'85% del personale è tutto a Roma. Sì, sì, è come. Dov'è il comune di Alessandria, Buonanno? Dove si trova il comune di Alessandria? Dove si trova? In quale parte d'Italia si trova il comune di Alessandria? Dalla sinistra, certo. Dove si trova il comune di Alessandria? Dove si trova? Lo sai che era fallito, ma non c'entra il sindaco di sinistra o di destra. Lo sai che come no? Anche il comune di Catania fallì qualche anno fa. Vabbè, era fallito. Lo sai, Buonanno, lo sai che è tornata la Chienghe, pare che voglia fare il sottosegretario o viceministro, eh? Bello. Te lo dico, Comunque l'hanno degradata. Beh, sì, sarà se dovesse essere così. Ha scritto un libro comunque. Ieri era da. Sì, ha scritto un libro. L'ha scritto su che cosa? Quello che non ha fatto avrà tutte le pagine bianche. Ho sognato perché una strada, diritti, la sua storia. Scusi, se ha scritto quello che ha fatto come non è quello. Tutte le pagine bianche. No, ma non è quello. Ah. No, non è sa scrivere in italiano meglio dei leghisti, la signora. Sull'integrazione, chi te l'ha detta sta cosa che sa scrivere meglio dei leghisti? Scusa, tu già hai detto che ieri i leghisti sono dei tarati mentali e qualcuno ti denuncerà probabilmente. E lo ripeto, ho detto che chi pensa che esista il dio Po e va a raccogliere l'acqua del Po con l'ampolla e la porta dal Piemonte fino a Venezia ha delle tare mentali. Intanto dal Monviso nasce il Po, meno male che esiste il Po. Comunque Platinette ti ha fatto una domanda, non hai risposto l'altro giorno a Quinta Colonna, ma ci sono o no gli omosessuali nella Lega? Non hai risposto, No, non mi hanno fatto neanche parlare, comunque. Ci sono o no? Hai visto come si è incavolata la Platinette? Piangeva quasi. Oh, mi ha detto puffo. Ci sono? Però è un interlocutore per te perfetto, così, Platinette. Da uno piccolino, mi ha detto puffo. Ma ci sono gli omosessuali? Dimmi, che c'è da dire su Platinette? Io non ne conosco, però non posso mettere la mano sul fuoco. Però chi entra nella Lega, mi sa che tanto spazio non c'è, Come diciamo, non in tanto spazio. Ma no, ma se uno entra nella Lega, chi si iscrive alla Lega sicuramente non sa che gli omosessuali. Ma non è che nell'iscrizione c'è scritto quali sono le tue preferenze sessuali. No, quello no, però sai, uno sa che non va proprio in un movimento. No, cioè uno va in un movimento. Proprio ti posso dire che conosco dei un paio di persone che votano Lega che sono, omosessuali. Ce ne saranno anche di più. Ce ne saranno anche di più. No, io dico ne conosco un paio, però certo che. Ma per me non c'è mica nessun problema. Diciamo la verità, un leader della Lega omosessuale non ci può essere. Diciamo, c'è già Vendola per i comunisti, basta e avanza. Cioè, no, tu lo escludi il fatto che ci possa essere nel futuro un leader della Lega omosessuale? Impossibile. Ma nella vita tutto è possibile. Vabbè, però, mi sembrerebbe molto strano. Perché dici molto strano? Ma no, perché comunque la base della Lega non lo sopporterebbe. Contano le idee, contano, ma mi sembrerebbe molto molto difficile. Molto difficile. Molto difficile. Cioè basta, sì. Basta poi, Vendola. Poi c'è omosessuale, omosessuale. Ad esempio io rispetto, sì, e ho ammirazione per gli omosessuali che hanno questa capacità di comunque di essere omosessuale e nello stesso tempo di non fare, come dire, far vedere tutta questa differenza. Scusa, ma Luxuria, per esempio, noiosi. Luxuria che è andata a Sochi, però perché non va in Uganda, secondo te, Vladimir? Luxuria se l'è cercata, sì? Ovviamente ha voluto farsi un po' di pubblicità, mi dispiace che Putin non l'ha tenuta là. Ah, doveva tenerla là in galera, ecco. Dici te, per un po' di tempo, no? Ma no, un pochino, magari si divertiva anche a vedere come erano le carceri russe. Cioè, all'interno delle carceri russe sarebbe divertita. No, allora, se uno va e per una... Ma perché non va in Uganda, secondo te? Perché non va in Uganda? Dove... Luxuria? Non so, si mette d'accordo con la Chieng, non so, potrebbe farlo. No, ma sai che succede in Uganda, no? In questo hanno fatto delle leggi terribili. Ma non sa niente. Non lo sa. Sì, non sa niente. Qual è la capitale dell'Uganda? Qual è la capitale dell'Uganda? Ancora. La capitale dell'Uganda, buon anno. Ma no, è Kampala. Buon anno. Ma l'altra volta mi hai detto Kinshasa. Ma quello è un altro paese, dai. È il Congo. Era il Congo. Mamma mia, guarda. Era il Congo. Che disastro. No, sto quello vero questa volta. Ma ve lo giuro, guardate. Su voi due lo giuro, guarda. Venuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda. Sull'erba butto spesso il bici storica. Non voglio quanti fretta, ma troppo inizia la festa. Società, tifosi. Se ti dico un centinaio di telefonate, ti dico poco, poi ho chiuso il telefono. Mi hanno fatto i complimenti, ha fatto bene a dire quello che pensi a Taormina, cioè quello che io ho detto a Taormina, secondo loro erano parole vere, dette dal moggio vero, cosa che non è così. Gli scandali non ci sono solamente all'ATAC, solamente nel centro-sud, gli sprechi di denaro pubblico, caro Parenzo. Appunto. Sono cose per cui dovremmo incazzarci, dovremmo indignarci ogni giorno. In Trentino Alto Adige, con la scusa di ridurre il costo dei vitalizi e delle pensioni per i consiglieri regionali, hanno distribuito a pioggia 90 milioni di euro con picchi di oltre 1 milione di euro dati cash a ogni singolo ex consigliere regionale. 90 milioni di euro a più di 100 ex consiglieri regionali. A 123 politici hanno distribuito 90 milioni di euro. Conto o no? Beh, della però vedi, lì nessuno si arrabbia perché il Trentino Alto Adige è una regione che funziona, efficiente. Come nessuno si arrabbia? C'è gente imbufalita. Sì, però se la cosa fosse avvenuta in una regione del sud, è chiaro che sarebbe venuto giù il finimondo, no? Tu lo sai che all'ATAC, è uno scandalo, è ovvio che è uno scandalo. Tu lo sai che all'ATAC a Roma ogni giorno io prendo sempre e ti dico ogni giorno restano a casa su 12.000 persone, quasi 12.000 dipendenti, 1.400 per persone malattia? Certo, per assenteismo. Insomma, in generale 1.400 persone su 12.000. Sì, però qui non c'entra Marino solo, dai, perché c'entrano tutti quelli che hanno governato la città, i dirigenti, certo, che permettono, certo, a questi che non mandano le visite fiscali a casa, ad esempio. Vabbè, sentiamo come ci racconta la giornata il TG Trua, l'ultimo telegiornale comunista, sì, rimasto, diretto dalla signora Berlinguer. Comunista, perché? Ex comunista, lo vuoi chiamare? Mi sembra eccessivo. Telegiornale comunista, ma lo dico con... a me piace moltissimo. È il TG3. È il telegiornale comunista. Ma adesso definilo comunista, non esistono più i comunisti. Ma scusa, ma chi è il direttore del telegiornale del TG3? Come si chiama il direttore di cognome? È una sincera democratica, la signora Berlinguer. Certo. Ma chi c'entra? È un telegiornale comunista con orgoglio. Ma come fai a dire comunista? Sei pazzo? Sei bagato in testa, comunista. Ma che comunista? Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Lo strappo dei 5 Stelle, si dimettono 6 senatori, fedelissimi di Grillo, adesso via tutti i parassiti, nuova riunione a Palazzo Madama. Dopo il ritiro del decreto Salva Roma, Marino minaccia di bloccare la città, irritazione di Palazzo Chigi che comunque annuncia un nuovo provvedimento. Il fondo monetario, bene il programma di Renzi per la crescita, ora valuteremo i fatti, ai minimi tassi dei BTP cresce la fiducia delle imprese. La direzione del PD riunita per dare il via libera all'adesione al PSE, i socialisti europei, la richiesta sarà accettata all'unanimità. Martedì riprende alla Camera l'esame della riforma elettorale, il voto entro la settimana. 20 senatori PD firmano un documento per legare legge elettorale riforme. In Crimea i controrivoluzionari filorussi occupano il Parlamento e chiedono la secessione dell'Ucraina alla Russia. Yanukovych dice: sono ancora io il presidente. A 2 anni dal naufragio il comandante Schettino torna a bordo della Costa Concordia, arresta di fotografi e giornalisti, nuovo sopralluogo dei magistrati sul relitto. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Soprattutto per quelli, perché proprio te? Chiederlo a chi mi ha indicato. Che hanno cambiato poltrona. Dall'ambiente alla giustizia vuol dire che sei buono a fare qualsiasi cosa. Può darsi. A casa mi sei rotta la lavatrice, ma vieni a gestare. E al cestello mi si blocca tutte le volte che mette le mutande dentro. Mettiamoci d'accordo, non so, oggi pomeriggio. La mia scarsa igiene intima. Oggi pomeriggio ti aspetto che c'hai mutande zozze, capito? La conosce anche Pannella. Lucci alle prese con Orlando e poi con Pannella. E chi ha detto Pannella? Aspetta. A Marco lì. Tiro del culo che Emma Bonino non è più ministro degli esteri. Scusa, occupati del tuo culo che mi hanno detto che è sporco anche il culo, non solo la faccia, stai bravo, ciao. Quando Emma, ce fa caso Emma, non fa niente, pure se insegni, fa il comizio di addio, sta giù, anche lui cerca i riflettori. No, tu no, Pannella, devi star sotto. Ma tu vaffanculo. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Oh, Barnard insiste, dovete disobbedire nel nome dell'Italia, lo dice Barnard, è quel signore che ha invocato che la rivolta di finanza, sì, sì, certo, che si devono ribellare, un economista, giornalista, dovrebbe finire in gabbia, per citare la medesima trasmissione. Cioè, secondo te deve finire in galera? E dovrebbe no, io dico che uno che incita, ma dillo, dillo, abbi coraggio di dirlo, abbi coraggio, ti ho appena detto, deve finire in gabbia uno che incita alla rivolta di pezzi dello Stato. Scusa, nel nome dell'Italia e di almeno 2 generazioni di nostri ragazzi, voi dovete disobbedire, non mandate i vostri uomini a fare i controlli a chi sta cercando di sopravvivere disperatamente alla chemiotassazione dell'Eurozona. La chemiotassazione. A proposito di 5 Stelle, alla chemiotassazione. Dice, vabbè, ma quella ha ragione, la chemiotassazione è vero. Scusami un attimo. C'è una tassazione eccessiva in Italia, quello, su quello ha ragione Barnard. Non mi piace chemiotassazione perché la chemia è una cosa seria, quindi non mi piace questa iperbole per niente. Però fammi dire una cosa, perché il signor Grillo ha usato il termine parassiti. Esatto, parassiti. Ecco, parassiti. Allora? Abbiamo tempo, si può dire ora una cosina. No, dimmelo. Il termine parassiti la usò il signor Adolf, quello coi baffetti. Ma non è vero, dai. Nel Mein Kampf usò, ma non è vero un corno, usò la parola parassiti. Lui dice parassiti. Per definire persone che non erano degne di vivere, che dovevano essere estirpate. Cioè, capito? Tu dici parassiti. Dici no, io Grillo dico come Hitler. Dico, Grillo come Hitler. Grillo usa il frasario di Adolf, sì, certamente, di Adolf Hitler, perché la parola parassiti la usava Hitler nel Mein Kampf. Vergognati. E se tu difendi anche questo solo perché li hai votati, no, io ti dico solo una parola a te, dimmi, una sola, sì. Vergogna. Non ha bisogno, quindi vai cercarne un altro. Allora, una specie parassita. Senti cosa, degna soltanto di venire estirpata in modo definitivo. Firmato Adolf Hitler. Queste sono le parole. Vabbè, hai detto che Grillo è come Hitler. L'abbiamo già, l'abbiamo capito. Dai, su. Avanti. Ieri Tacconi, uno di quelli che ha annunciato Stefano l'uscita, Tacconi. No, non il portiere, ecco, l'ex l'altro portiere, ma Tacconi, Alessio Tacconi dei 5 Stelle, dice, bravissimo, che lui in Svizzera con i soldi dei 5 Stelle, cioè 2500 netti al mese, fa la fame. Zanzara. Io le dico una cosa, l'anno scorso una delle caratteristiche, una delle, mi scusi, statistiche in Svizzera diceva che la soglia di povertà era attorno ai 2500 euro. E allora? Quindi, no, voglio dire, cioè, con 2500 euro in Svizzera c'è la soglia di povertà, ma lei in realtà sta 5 giorni a Roma, beh, che c'ha la famiglia lì e tutto. No, no, assolutamente, io vivo lì, c'ho la famiglia, c'ho la macchina, c'ho le tasse, c'ho l'appartamento, l'affitto dell'appartamento, quindi voglio dire, sono spese comunque normali di una famiglia normale. Francesco da Roma, buonasera. Io sono intervenuto ieri, non ho potuto, intervengo oggi sulla questione. Va bene, tranquillo, vada avanti, vada al punto, su Francesco, dai. Voto online è stato messo in dubbio la validità del voto. La validità del voto secondo me è assolutamente difficile da mettere in dubbio. Se fossi casaleggio non farei nessun imbroglio, perché i provider fanno i backup dei dati. Vabbè, adesso guardi la spiegazione tecnica di quello che avviene. Dimmi. La rete non è per niente irrintracciabile, è tutto molto tracciabile. Quello che è farlocco invece sono le elezioni primarie, di cui non si sa niente, non si sa come avvengono, non si sa come si fanno. Va bene. Queste sono farlocche. Farlocco anche un sistema di partiti fatto su associazioni senza personalità giuridica, che non hanno regole interne, sì, e che attraverso un sistema che non è per niente controllato come le primarie fanno in modo di eleggere un Presidente del Consiglio. Quello è tutto farlocco. Quello sì. Va bene, Francesco, grazie. Claudio, provincia di Treviso. Pronto, ciao Cruciani. Dimmi. Parenzo lì vicino a te? No, è a Roma, caro. È a Roma, ma è vero che è Veneto, Parenzo? Beh, certo che è Veneto. Di Padova. Allora? Di Padova, allora mi dispiace per i suoi genitori. Perché quando è nato lo hanno scambiato in culla. No, lui ti assicuro, c'ero solo io quel giorno. Perché? Ti assicuro. Perché uno non può un Veneto ragionarco che ha testa da batter batter. Scusami, Claudio, scusami. Aspetta un attimo, fallo parlare un attimo. Allora? Parla pure in dialetto, perché un Veneto non può ragionare come te. Perché? Perché? Perché se i tuoi genitori sono veneti... Sì, allora? Allora tu sei stato scambiato in culla. Lì non c'era un Veneto quando gli hanno... Purtroppo, mi dispiace per i tuoi genitori, ma devi cercare la madre. Che cosa... un veneto non può ragionare come te. Capito, Parenzo. Scusami, Claudio, scusami un attimo, perché mi pare che te il cervello che va un fia in mona. Il cervello in mona. La discussione è questa, il punto è questo, il punto è questo qua, il punto è questo. Mi non credo a nazion veneta. Posso non credere che sei il dio Po? Posso non credere all'ampolla? Posso non credere a sta di ampolla, Claudio. Lascia stare, a tutta sta roba qua è a difesa Claudio, del territorio. Claudio, perché non è un vero Veneto? Oh. Perché non è un vero quel Veneto, giorno, il 14 febbraio. Non lasci parlare o no? Dai. Parenzo, tu, i tuoi genitori, ma lo sai che il mio bisnonno è partito in Brasile prima del 1850, vabbè, poi chi mio se ne frega, è venuto scusa, qui, è venuto qui prima della prima guerra mondiale, hanno sempre lavorato, i miei genitori hanno sempre lavorato e i quattro ladroni ci hanno mangiato tutto. Vabbè, allora? Tutto ci hanno mangiato. Allora come faccio sempre a difenderli? Brucia Roma, con i romani. Brucia Roma, con i cristiani. Roma deve fallire, come succede per molte città americane. Deve andare in bancarotta. Perché non è possibile che io con i miei soldi, con i miei denari e anche con i tuoi, Parenzo, che non mi sembri granché appassionato, nonostante il fatto che tu abiti a Roma, a questo argomento, con molto i tuoi appassionato soldi paghi degli sprechi indicibili. E Roma deve bruciare, nel senso che deve fallire, deve andare in fallimento, in bancarotta, perché solo così si potrà riprendere. È inutile che piange il sindaco Marino. È inutile che fa il piagnisteo nelle televisioni. Fammi capire. Fermo, deve andare in bancarotta. Fermo lì. Fammi dire una cosa. Io non posso. Non voglio sostenere una città che tra Acea, Energia e Acqua, Ama, Rifiuti, sì, Atac, Trasporti, sì, ha 31.338 dipendenti, cioè l'85% del personale di tutte le partecipate comunali. Tutte! Ha 10.000 in più rispetto a tutti gli stabilimenti della Fiat in Italia, 26.000. Senza contare i 25.000 dipendenti diretti dell'amministrazione comunale e tutte le partecipate del comune. È una vergogna, è una vergogna. Lo sapeva molto bene. È una vergogna che si pianga mentre non si ha il coraggio di tagliare e forse anche di fallire, di andare in bancarotta. Mentre solo lui sapeva suonare la cetra. Mo noi altri siamo tanti a sparare. Claudio, che voleva dire Claudio? Allora? Niente, volevo dire che ormai penso che per Roma ci vogliono i plotoni di esecuzione che li aspettano fuori. Cioè, in che se chi aspetta fuori chi? Scusi, che c'entrano i plotoni di esecuzione? Quelli che non vanno a lavorare. Oggi ho parlato con un signore che è andato in pensione a 39 anni, 6 mesi, un giorno. E allora? Che faceva il ferroviere. Ecco, una volta si poteva, avrà avuto purtroppo 75 anni. Ma cosa c'entra ma questo? Chi è che li mantiene quelli lì? Dove andiamo a trovare i soldi a mantenere quelli lì? Quali? Che pensioni? Quali? Quali? Quelli che sono andati in pensione che erano bambini erano. Ha ragione. Come su questi facciamo a mantenerli? Vabbè, è un problema Claudio, vecchio questo qui. Claudio, lei, il problema vero è che a Roma ci sono delle società che hanno un numero strabordante di dipendenti e si permettono pure di essere assenteisti questi qua, capito? Nicola da Firenze. Grazie, grazie Nicola da Firenze. Bisognerebbe bussare a tutti gli amministratori di questa città, anche a Nanno. Non sto dicendo di Marino, hanno pianto tutti e tutti hanno preso soldi da noi. Appunto, l'ultimo è Marino, non sto dicendo che la colpa è solo di Marino, dai, Nicola allora, da Firenze. Sembra possibile mandare sulla strada 30.000 persone adesso. Bisogna che il comune fallisca, basta, Nicola da Firenze, bancarotta. Pronto. Cruciani, buonasera, buonasera Parenzo. In America succede, in America, dubbio, in America succede. Sono d'accordo con te su questo. Nico, altrimenti come risali una città? Sempre a chiedere soldi, soldi, soldi a noi. Basta. Nicola, forza. Allora, il signor Marino, se non è in grado di fare il sindaco, doveva rimanere dov'era a fare il chirurgo, se era capace di fare quello. Deve prendere in mano la matassa Roma, sgogliarla, levare la merda e cominciare a fare le cose che un sindaco dovrebbe fare. Però Nicola, ma venire a dire ci vuole soldi, datemi soldi. Ma lui sta facendo bene il suo lavoro invece, perché batte cassa, sta tutelando io dal suo punto di vista. Ho detto cassa, no, ma mi ascolti, dal suo punto, non ho detto che è giusto, ma dal suo punto di vista, caro vabbè, Nicola, il signor Marino, no, sta facendo bene il suo lavoro, perché sì, vabbè, Nicola, batte cassa. Perché non sa fare l'amministratore, questo lo vedremo. Nicola, certo, allora lo e sono già 6 mesi che è lì, ancora non ci ha capito niente. Il problema in Italia è che se continuiamo a buttare soldi in questo modo, con i soldi alle regioni, con i soldi ai comuni sfasciati, l'assenteismo di migliaia di persone che non fanno una sega, e noi lavoratori autonomi dobbiamo lavorare fino a mezzanotte per tirare avanti il carro, ma questa gente ma c'è o ci fa? Perché alla fine bisognerà fare una cosa sola, la rivoluzione, che io non ci ho mai pensato, ma bisognerà arrivarci. Grazie, ha Nicola, grazie, grazie. Davide, Davide da Lodi, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera. Allora? Volevo fare un intervento un po' fuori dal coro da quello che ho letto e sentito in questi giorni, in cui si accusa comunque l'aggressore del taxista come se fosse un assassino. In realtà io sono contento che sia stato liberato. Con questo tutte le condoglianze alla famiglia. Cioè, lei è contento che quello che ha provocato la morte con una bottigliata in testa al tassista che poi ha sbattuto la testa, lei è contento che sia stato scarcerato? Sì, non che sia stato assolto, attenzione, ma che sia stato innanzitutto è scarcerato perché rimandato a casa. È stato scarcerato, sembra, perché l'omicidio è l'accusa di omicidio per delitto intenzionale e dunque pare sia stato provocato. Pronto? Un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì, avvocato? Sì. Sì, buonasera. Ah, buonasera. Radio 24, Cruciani, come sta? La disturbo? No, buonasera. Senta, io vorrei dire, lei è il console onorario dell'Uganda? Sì. Avvocato Randazzo, no, giusto? Sì, sì. Senta, un italiano console onorario, interessante. Noi volevamo chiederle una cosa, avvocato, è curioso, lei è console onorario dell'Uganda, ma non si vergogna un po' per quello che accade in Uganda con queste leggi anti-gay tremende? Guardi, non è bello quello che abbiamo letto e sentito, me ne rendo conto. Sì. Sì, bisognerebbe riconoscere un po' meglio i fatti, però non è affatto bello, soprattutto quello che ho visto su Sky ieri. Cioè, che ha visto su Sky? L'intervista. L'intervista a chi? Del presidente. Ah, del presidente, sì. No, io la cosa che voglio dire, l'avvocato Randazzo, lei rappresenta l'Uganda in Italia come console onorario, giusto? Sì. Un paese che ha approvato una legge che prevede anche l'ergastolo in alcuni casi, per attività omosessuali, atti omosessuali, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E in più c'è la storia dei 200 nomi pubblicati, cioè, insomma, è un paese fortemente anti-gay. Lei... non è imbarazzo, un minimo. Dovrebbe almeno essere imbarazzo. Me lo dice, sì, lo confermo. Come, scusi? Piazione della lista, che sembra una lista di proscrizione dei tempi d'oggi, no? Sì, certo. No, condivido pienamente, sono d'accordo. Non si può argomentare in nessun modo. Il suo imbarazzo... Restituisca il titolo, allora. Rinuncia a questa cosa qua, oppure sono più importanti gli affari e i commerci con l'Uganda, secondo lei? No, poi sa, in realtà non è solamente affari e commercio, cioè ci sono tante altre attività che si fanno con l'Uganda che sono ben altro, cooperazione internazionale, interventi nel settore sanitario, formazione, non è, cioè, se così la semplifichiamo un po' troppo. No, d'accordo, però di fronte a cose così gravi, cioè al fatto che il presidente dell'Uganda si esprime in un certo modo contro gli omosessuali, che sono malati, che sono disturbati, che non, l'Occidente non ci può imporre la sua cultura, tutte le cose tremende che abbiamo ascoltato in questi giorni, lei che è uno dei rappresentanti dell'Uganda in Italia come console onorario, ma è anche italiano, restituisca quel titolo di console onorario, faccia un gesto, dico, non voglio più fare il console onorario di un paese che viola in modo così. Guardi, domani sono a Roma in ambasciata e magari sentiamoci dopo. Potrebbe fare questo gesto? Domani ne parliamo. Domani ne parliamo, va bene. Però l'Uganda... Cioè, si sente in imbarazzo in queste ore, lei? Si sente... Beh, sì, dai, cioè, viviamo in un paese che su questo argomento ha fatto passi da gigante, no, negli ultimi anni. Cioè, no, questo no, non abbiamo fatto passi da gigante, cioè l'Italia... Beh sì, certo, cioè, non mettiamo in galera gli omosessuali, su questo non c'è dubbio. L'Uganda, rispetto a 20 anni fa è cambiato molto il nostro paese. No, quello d'accordo, voglio dire... Quindi no, volevo concludere. Il suo nome affiancato all'Uganda è una cosa... Infamante. Cioè l'avvocato Randazzo / Uganda. Insomma, la sto chiamando un po' troppo così, dai. Non è piacevole, lo ammetto. Però rinunci alla sua carica, guardi, le do un consiglio, vada domani in ambasciata, un consiglio di comunicazione. Cruciali, ne parleremo. Va bene, grazie avvocato, grazie. Saluti a avvocato, presto, grazie. Arrivederlo. Davide da Torino, Davide. Davide. Sì, dimmi. Pronto, buonasera. Volevo fare un intervento su Cruciani che è sempre più su Parenzo che è sempre più moralista e bigotto, perché si mette a fare il professorino di semiotica adesso. Temio tassazione lo dice perché da Kenio è pieno di... Davide, non si sente niente. Daniela da Rimini. Pronto? Dica. Buonasera. Buonasera Cruciani. Sì. Io volevo parlarle che secondo me ha ragione lei, nel senso che Roma deve fallire, ma Roma... Ma certo, deve fallire, deve andare in fallimento, perché deve fare bancarotta. Sono anni che si sente di indagini perché quello ha rubato la Polverini e Fiorito e tutto. Che fine hanno fatto? Dove sono? Sequestrategli tutto quello che hanno, invece no. No, sono ancora lì. Ma quello che c'entra, la Polverini, quella è la regione, dai, non c'entra niente. Ma Daniele, è tutto l'insieme che fa schifo. In America ci sono addirittura stati che falliscono, che dichiarano bancarotta, e poi ricominciano. Io mi sono scocciato di sganciare anche un solo centesimo per ripianare le vergogne, gli abusi, le storture, gli sprechi di gente che ha assunto decine e decine, se non centinaia di persone in tutte le amministrazioni comunali, in tutte le società comunali di Roma, per farsi i cazzi loro. Ha capito? Mi sono stufato. Perché nessuno ha fatto niente finora. Perché ancora. Perché non è una cosa comodo a tutti, perché comunque, faceva comodo a tutti negli enti pubblici, lo capiamo, alla destra e alla sinistra. Questo è evidente. Vergogna. E anche a chi veniva assunto. Brucia Roma, brucia Roma, con i romani. Brucia Roma, brucia Roma, con i cristiani. Aldo da Roma. Aldo. Sono in linea. Mi dica. Signor Cruciani, guardi, io capisco che lei debba condurre la trasmissione con un certo stile perché deve fare audience, ci mancherebbe altro. Però a Roma c'è una situazione molto precaria, molto sì. pericolosa. E quindi questo tono, queste parole, Roma deve fallire. Certo che deve fallire, ma deve fallire mica deve, cioè deve fallire nel senso che deve dichiarare bancarotta, deve dichiarare bancarotta, okay, non possiamo bene, mantenere allora, più i carrozzoni, ci sono troppi carrozzoni. Ma capisco. Allora o si taglia, o si taglia. Non possiamo andare avanti con la bacchetta magica. Vabbè, allora guardi, si tenga Roma con i suoi debiti, con le sue aziende piene. Guardi, io sono romano, sono nato a Roma, mi onoro di essere romano. Io non mi onoro di niente, sono nato a Roma, non mi onoro di nulla. Mi permetta, con molta calma. A me così Roma mi fa schifo, ha capito? Mi fa schifo. Ma capisco, guardi, io mi fa schifo quando la vedo sporca, quando la vedo trattata male, quando vedo gli autobus sudici, quando vedo un disinteresse generale. Anch'io sento una situazione di ripulsa e di sofferenza. Però non mi pare che la ricetta giusta sia quella di dire Roma deve fallire. Ma deve fallire? Ma certo che deve fallire. Roma non appartiene ai romani, Roma appartiene al mondo. Ma si rende conto della pericolosità di quello che dice? Ma guardi il termometro, si vede tra le frasi che lei riceve. Sì, i romani fanno schifo. Ma lasci perdere che devono morire. Sta aiutando le persone che non ragionano bene, come quelli della Lega che odiano tutto da Firenze giù, ci odiano, compreso lei. Io non odio nessuno. Che odia da Firenze giù. Io dico che non è possibile. In America ci sono stati e città che falliscono, dichiarano bancarotti. Io mi sono rotto le scatole. Su un piano diciamo filosofico. Senta, se lei vuole continuare a mantenere in vita società decotte, piene di raccomandati, piene di buchi, piene di debiti, perché hanno negli anni politici hanno messo dentro pure le nonne, i parenti, gli zii, i nipoti, eccetera, faccia pure. Se li tenga, io non voglio tirare più una lì, non voglio tirare più fuori soldi, ha capito? Non voglio più tirare fuori soldi. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece si appoggia proprio addosso a me. No! Ma uno dei casi del giorno più clamorosi. L'ultima puntata, perché è stata sospesa, poi la trasmissione linea gialla, non è stata sospesa per questo, è la trasmissione linea gialla di Salvo Sottile, dove era ospite Sollecito, condannato per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. È inutile Parenzo fare, no, perché poi qualcuno ci accusa di non fare il riassunto di quello che è successo. No, vabbè, questo. Si sa. Ecco appunto. Hanno suscitato scandalo alcune frasi pronunciate da Vittorio Feltri, alcune frasi crude, rivolte a Sollecito. Risentiamo la frase sulla. Lo spray. Sulla scopata, via. Lo faccio sempre con lo spray. Io voglio capire perché lui doveva ammazzare questo figlio. Allora, perché doveva ammazzare. La volevi scopare? Non lo so, sì, chiedo. Alla dottoressa, sinceramente, lo vorrei chiedere alla dottoressa. Ha senso incriminare questo giovanotto per un delitto che non si sa bene. Ma perché doveva farlo? Uno si stava laureando, stava facendo la tesi, c'aveva una fidanzata bellissima, va a scopare questo qui che non era neanche eccezionale, vogliamo dire. Sicuramente è una ragazza carina. Non lo so, ma voglio dire. Vittorio, ti sei pentito di quello che hai detto? No, figuriamoci, non ho detto niente di sensazionale, un ragionamento che voleva dimostrare la inesistenza di un plausibile movente che potesse aver indotto Sollecito a compiere un omicidio che francamente non credo che abbia commesso. Però scusami Vittorio, non è che il movente può essere il fatto che non aveva nessun motivo la bellezza per o la bruttezza. Beh, qual è? Ditemelo voi qual è il movente, anche solo un'ipotesi e io allora posso anche cambiare idea, inginocchiarmi, io ho fatto delle domande perché ero molto interessato a capire se effettivamente ci fosse qualche motivo per cui Sollecito potesse avere ammazzato questa ragazza che peraltro conosceva poco, che non aveva frequentato. Tra l'altro dobbiamo considerare che Sollecito conosceva Amanda il giorno dell'omicidio, da 5 giorni soltanto, quindi era in una fase di quella tipica dell'innamoramento, sì, specialmente per i giovani, no? Ma anche per chi non è più giovane, è una fase durante la quale riesce persino, ed è molto strano, ad essere fedele, no? Però scusami, quindi, Vittorio, io voglio capire una cosa, ma perché hai pronunciato quella parola? Molti hanno pensato, sì, nei confronti di un morto, nei confronti di una persona morta, non si può pronunciare la parola, ma non era niente di male, poi ma che te la volevi scopare? Lo so che è politicamente scorretto, lo so benissimo, ma mi sembra molto più scorretto mancare di rispetto ai vivi, perché mandare in galera della gente senza prove e senza neanche aver avuto la capacità di trovare un plausibile movente, e beh, questa è barbarie. Però questo qua è un'opinione, è un'opinione che va contro la mia, e l'ho espressa. D'accordo, cioè, però non tu si dici... può, è vietato. No, ma figurati. Ma come si saranno sentiti i genitori della signorina Meredith, ad esempio? Perché... Ma io non ho detto che Meredith sia una persona abietta. Io questo non l'ho detto. Hai detto che è racchia, diciamo. No, non l'ho detto. Non fammi racchia. Dire cose che io non ho neanche pensato. Ho detto che un ragazzo come Sollecito, che da pochi giorni era innamorato folle di questa Amanda, che tutti abbiamo visto, che non si può dire che fosse così da buttare via, no, ed era improbabile che nell'intento magari di avere dei favori sessuali da Meredith, e magari respinto, abbia commesso quel delitto. Tutto lì, ma dov'è lo scandalo? E quando tu ti sei rivolto, ma mi fate ridere, ma proprio voi dalla zanzara vi scandalizzate per un ragionamento normale. Io no. E Parenzo si è un po' scandalizzato. Ma Parenzo, sì, sai, lui è fa parte di quella categoria di intellettualini di sinistra che, se uno parla chiaro, dice una parola che è meglio evitare, eccetera. Grazie alle vesti, e perde di vista il concetto centrale. Qui io sono scandalizzato perché un giovanotto di 20, secondo te, senza prove è stato condannato? Secondo te... Dove sono le prove? Se ci sono, ditemele. No, però al di là di questo, quando tu ti rivolgi a lui e gli dici: ma perché te la volevi scopare? Perché gli hai fatto questa domanda? Secondo me gli hai fatto questa domanda perché, se lui avesse risposto sì, è vero, ci volevo andare a lei. L'ho incastrati, però non c'è cascata. Esattamente, evidente, solamente uno scemo non capisce queste cose. E siccome gli scemi che ascoltano la televisione evidentemente sono più numerosi di quanto io sospettassi, si è scatenato un casino che sinceramente mi sembra sproporzionato alla questione. Ma chi è che si è arrabbiato con te? Ti sono arrivate telefonate, cose? Tu, no, telefonate nessuna. No, ma sai, ormai esistono questi social network dove chiunque può sputare, insolentire. Il bello è che parlano di rispetto per i morti, e poi non hanno rispetto neanche per i vivi. Cioè, è una cosa veramente grottesca. Tu parli di Sollecito in questo caso? No, Sollecito non c'entra, parlo di coloro i quali su Twitter mi hanno... No, sì, pare di Sollecito, nel senso, rispetto per i vivi verso chi, dici? Non hanno rispetto verso chi? Cioè, Feltri non ha rispetto per Meredith, che è morta, figurati, sì, se io ho mancato di rispetto a Meredith, cioè non potevo mica dire che era Sofia Loren, cioè, di 50 anni fa. Ho detto la verità, ho detto che Sollecito aveva una ragazza bellissima, ma da pochi giorni, quando ancora siamo nella fase dell'eccitazione massima, non aveva nessuna inclinazione a tradire, a fare delle cose strane, e quindi mi sono limitato a descrivere la realtà. Non è che io ma la domanda cruda fatta a Sollecito ha scandalizzato Parenzo, perché Feltri non può fare la domanda? Te la volevi scopare? Parenzo non scopa mai, no? Allora lui la parola scopare ma io sulle mie attività, diciamo, di Lenzuola non voglio entrare nel merito, però effettivamente sorprende questa parola qua, sorprende chi poi alla fine mi sorprende, secondo me scopi poco, secondo me scopi poco, ma no, secondo me scopi poco, ma lascia stare me, forse mai può essere mai una volta 9 mesi fa, 10 mesi fa sicuramente sì, può essere una volta al giorno, 2-3 volte, ma non è quello. Ma quale il tema? 3 volte al giorno? Era offensivo? Era sgradevole? Vuole che vada avanti? Una volta ha voluto che approvassi un concorso in cui regalava una tazza del gabinetto all'ascoltatore che produceva le feci più grosse, in onda, Immagini l'organizzazione logistica. Prima del morso ti puoi anche confessare. Leggo su un giornale che appartiene al mondo della comunicazione, non vi dico nemmeno che giornale per non fare troppa pubblicità, però certe persone dovrebbero avere il coraggio di firmarsi invece di utilizzare degli pseudonimi. Comunque, sta parlando della Zanzara questo, eh? Raramente mi sono trovato ad ascoltare una cosa tanto volgare. Non parlo evidentemente solo della volgarità lessicale, a stupirmi è la volgarità concettuale, la totale mancanza di correttezza espressiva nell'affrontare argomenti sensibili come per esempio il razzismo o la sessualità. Questo dice di aver ascoltato la Zanzara solo una volta, attenzione, una volta in vita sua, questo fenomeno qua. Sarà perché sto invecchiando, ma confesso che non trovo tutto ciò divertente, anzi che provo lo stesso disgusto che provo negli Stati Uniti quando, con spirito antropologico, mi metto all'ascolto dei vari Rush Limbaugh populisti che speculano sui peggiori istinti dell'America profonda. Trasmissioni legittime, ma non per questo meno disprezzabili. Così come si potrebbe dire della Zanzara, la cosa però totalmente incomprensibile è come la Zanzara possa andare in onda su una radio di Confindustria. Insiste questo signore che si firma Smile. Ho un paio di amici che hanno seduto o siedono nel CDA della casa editrice Confindustriale. Mi chiedo, conoscendoli, come possano sottovalutare la gravità del messaggio implicito che l'organizzazione degli imprenditori lancia al paese mettendo in onda una trasmissione come questa. Il Sole 24 Ore non dovrebbe mandare in onda la Zanzara. L'idea che il nuovo giornalismo sia l'agguato telefonico a barca, la telecamera nascosta delle Iene, il gabibbo o il fuori onda non è così. Il giornalismo ha delle regole. Posso dare una piccola risposta a questo signore anonimo? E che anonimo? Mi piacerebbe andare a fare in culo. Mughini, però. Chi ha detto che è Mughini? Hai usato le parole di Mughini, diciamo. Però c'è ancora il Sir Feltri? Certo. Allora, certo. Torniamo presente, un secondo alla questione tecnica della parola scopata. Il sottoscritto, non intellettuale e non sempre di sinistra, però l'ho ma no, spesso, sei presunto intellettuale di sinistra. Dice, ma non è questo il tema. Dice semplicemente, da anima bella e pura, che si è scandalizzato non tanto per l'uso della parola, quanto perché c'era un cadavere di mezzo. Solo per questo, dopodiché figuriamoci, siamo ma i primi c'entra, noi. Ma che c'entra, scusa, che c'entra? Siccome si parlava di un cadavere. Ma perché cadavere, la signorina in oggetto non praticava quella cosa lì quando era viva, che c'entra? Adesso è una speculazione della tua. Ma era rivolto non alla signora Meredith, capito, era rivolto a sollecito. C'è delle regole, no? Come si dice in gergo. Ma le regole come chi le decide? Possono... Tu, chi le decide le regole? Io mi hai chiesto un parere, te l'ho espresso. Vabbè, dai. Non mi sono scandalizzato, ma mi ha dato fastidio l'utilizzo di quella parola in quel contesto, perché non era un talk show come può essere il nostro quando mandiamo a quel paese un grillino, ad esempio, o uno del PD o uno di Forza Italia. Lì è un caso di cronaca l'Abruzzone nera. Si è con arrabbiata. Un morto. Ma chi è la criminologa? La criminologa che si è c'è arrabbiata. C'è un cadavere, un morto lì, ci sono dei genitori che magari avranno saputo di questa cosa e chissà come si saranno sentiti, ma non è perché sono pio e sensibile che dico questo. Vabbè, penso che Vittorio, in vuoi rispondere al pio e in sensibile molti Valenzo? La pensano sì, come voglio, me. Se me lo permetti vorrei Vai. Rispondere. Va benissimo, questo, sappiamo tutti i morti, quando uno muore diventa bravo, buono, vergine, lo sappiamo, queste sono le abitudini, abbiamo studiato tutti i sepolcri, sappiamo benissimo, queste cose sono vecchie come il mondo, ma avere rispetto per i morti va anche bene, benissimo, io non credo di aver mancato di rispetto alla vittima, ma a me fa specie, mi sorprende che qui non ci sia rispetto per due persone vive, e cioè il signor Sollecito e la signora Amanda, che stanno rischiando, anzi già sono stati condannati in appello a 25, 26 anni, 27 anni di galera per un omicidio senza lo straccio di una prova. Questo mi indigna, caro Parenzo, non il fatto che sia morta questa signora, che comunque ci siamo addolorati tutti, perché di fronte a un delitto, un omicidio, tutti proviamo dolore, ma altrimenti saremmo degli alieni. Ma quella frase lì, perché invece per questi due si può usare tutto il disprezzo di cui abbiamo. No, ma quella frase lì, caro Parenzo, era rivolta, adesso non voglio fare il difensore d'ufficio, che i magistrati hanno hanno fatto era delle rivolta indagini fatte a male, ottenere da a ottenere da sollecito una risposta. Non era uno sbeffeggiamento della signora Meredith. Lasciamo stare la maieutica che si No, ma è così, Vittorio, rispondi casi. Tu su questo perché penso che sia così. Ma scusa, ma abbi pazienza. Pietà anche, quando sì. tu fai una domanda, sì. la fai perché è finalizzata a sapere qualche cosa che può essere utile allo scopo di capire come sono andate le cose. Questa è stata la mia domanda. Invece si è scatenato un putiferio perché io ho osato dire che anche la signora Meredith poteva essere oggetto di desiderio da parte di qualcuno, e mi pare anche che quella notte sia successo qualcosa in quella stanza. Allora perché non parlarne? Perché non dirlo? Così perché siamo ipocriti? Benissimo, volete che sia ipocrita anch'io? Non lo sarò. Scusa Vittorio, ma la Amanda ha fatto bene a restare in America? Sì, alla grande. Ma alla grande, è ovvio, perché qui è evidente che c'è un sistema che è stato è partito, ha macinato due o tre processi e a questo punto non si ferma più. Purtroppo la cosa che deve sorprenderci è che ancora oggi nei processi indiziari si spaccino per indizi degli indizi pallidissimi che non sono, diciamo, sufficienti per costruire un'impalcatura accusatoria, e dopodiché si condanna o si assolve, non si sa bene per quale motivo. Dunque, non ho capito, se l'Italia dovesse fare, si dovesse arrivare in Cassazione, lei fa benissimo a violare cioè ad andare contro le leggi italiane, eccetera. Ma lei non andrebbe contro le leggi italiane, lei è cittadina americana, si rivolge alle autorità americane, le quali, se decidono di rimandarla in Italia, la impacchettano, sì, la mandano, ma se ne qui, se ne fotteranno. Eh beh, questo è un altro discorso, però lei si affida agli americani, giustamente. E lui doveva scappare, tu hai detto, no? Lui doveva scappare. Ma io, cioè, intendiamoci, queste non sono... Beh, l'hai detto, era meglio andare a Santa Fe. Però se mi fai dire... Sì. Certo che le ho detto, io ho detto che al posto suo avrei fatto questo, nel timore di finire incapsulato in una cella, eccetera, eccetera. Così come l'avevo già detto, e te lo ricorderai perché l'ho detto anche alla Zanzara, che nei panni di Berlusconi non avrei atteso la sentenza della Cassazione qui in Italia. Sì. Avendo il passaporto in tasca me ne sarei andato, e legittimamente, perché col passaporto in tasca vai dove dici vuoi. Dici, con la giustizia italiana è meglio... Perché si sapeva come andava a finire, o no? O anche qui vogliamo usare ipocrisia e dire no, ma insomma io mi fido della magistratura. Sì, ma certo che ci fidiamo della magistratura, come fai a non fidarti, anche se non ti fidi? C'è poco da comunque fare. Ragazzi, parliamo d'altro. Sai che ha detto l'altro giorno Alessandro Mussolini che Casaleggio è Vittorio Feltri con la parrucca, ti giuro. No, sono uscite delle foto mia e di Casaleggio già qualche tempo fa, in cui si vede chiaramente che con i capelli lunghi io sono Casaleggio e con i capelli corti Casaleggio è Feltri. C'è una somiglianza vaga, se vuoi, di fondo, che comunque si evince anche dall'osservazione delle fotografie. Me ne sei lusingato tu, direttore? Ma sei lusingato? No? Ma che gli frega? Che gli frega di assomigliare a Casaleggio? Scusa, lusingato. Vittorio. A me non me ne frega un cacchio. Ma scusa, ma Grillo ha fatto bene a cacciare quelli là che adesso si rivoltano dopo aver conosciuto, mentre sapevano già che Grillo era fatto in questo modo? Ma guarda, a me non me ne importa niente, faccio quello che vogliono, io proprio sei disinteressato a quello che succede nel mondo del mondo grillino, insomma. Ma per l'amor di Dio, dopodiché Grillo, io so che agisce in un certo modo per difendere il gruppo, perché se non è compatto quel gruppo lì si sfalda, e quindi è evidente che ha tutto l'interesse di espellere coloro i quali si oppongono alla sua linea. Senza Grillo non esisterebbe il Movimento 5 Stelle, non esisterebbero tutti questi signori che sono stati eletti, quindi io, prima di dare torto a Grillo, ci penso due volte. Scusami un attimo Vittorio, ma sei anche tu, come Berlusconi, sei innamorato della Boschi? Cioè, il ministro delle riforme. Ma è molto carina, io non l'ho mai incontrata di persona, però non ho niente contro di lei. No, figuriamo. Non, per l'amor di Dio, è una persona gradevole, dopodiché vediamo se è capace di fare il ministro, se non è capace la prenderemo in giro. Quello d'accordo, ma Berlusconi si è innamorato perché c'ha questa faccia bella, gentile, molto carina, anche se poi molti l'hanno presa in giro per il vestito blu durante il giuramento. Sì, ma Berlusconi si innamora di tutte quelle decenti, quindi non, non bisogna... Fa poca selezione, dice. Non c'è grande selezione, dice. No, diciamo che è di bocca buona, no? Sì. Si va sui grandi molti buoni. Hanno criticato anche la Madia incinta, come si fa, non, come si fa a dargli... Vabbè, non è che essere incinta è una malattia, è dai. È dicevole, no? Meno male, incinta, per l'amor di Dio. Meno male, vabbè, ma da 1 a 10 quanto ti piace a sto governo? Ma diciamo che i propositi sono molto buoni, o comunque alcuni punti programmatici addirittura apprezzabili. Poi però bisognerà passare dalla fase teorica a quella pratica. E lì c'è di mezzo il mare, e io non so con quali risorse Renzi riuscirà a tradurre in pratica quello che ha in mente o che dice di avere in mente. Ma io non ho capito perché Parenzo chiama Hitler Grillo, perché ha utilizzato la parola parassitica. Peraltro viene utilizzata questa parola parassiti rivolta ai ribelli da alcuni dei suoi, cioè la frase esatta è questa: finalmente zavorra che va via, persone che da questo momento diventeranno parassiti, dovrebbero dimettersi, non cambiare gruppo. Questo l'hanno detto Di Maio, Alessandro Di Battista e altri 8 deputati dei 5 Stelle. Qual è il problema? Diventeranno parassiti perché probabilmente magari penseranno di prendere... Ho detto che Beppe Grillo usa metodi staliniani. Credo di sapere il motivo per cui Grillo dice queste cose. Questi signori che se ne vanno da domani, se si infilano nel gruppo misto, non osservano più la disciplina imposta dal Movimento 5 Stelle. Cosa significa? Che incasseranno tutta l'indennità, potranno avere tutti i soldi che spettano ai deputati e per quindi questo faranno una vita migliore. Ma anche questa cosa qui, insomma... O si vuole capire oppure facciamo i moralisti e vabbè, allora va bene tutto. Ciao Vittorio, a presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Fa male solo a chi non sa ridere. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa. Sentite uno di quelli cacciati da Grillo, Campanella. Mi ha beccato, mi ha beccato. Grazie, grazie. La prima persona che mi ha detto: ma lei immagina che possano espellerla per questo? Francamente ho pensato a un altro scherzo della zanzara. Ma assolutamente. Ma perché chi di voi penserebbe la possibilità di un'espulsione per una cosa di questo genere? Cioè Campanella, quando gli hanno detto che lo volevano cacciare, pensava che fosse il nostro scherzo. No, senatore Campanella, con lei abbiamo già dato una volta, Non infieriremo. Sufficit. Senti invece Vendola, ancora interpellato sulla questione delle telefonate, dello scambio di persona. È vero Vendola. Questo presidente, ma veramente non la chiamano più? Ci tolga, oramai è cosa vecchia, ma non la chiamano più al telefono? Mi è capitato proprio l'altro giorno di cercare ripetutamente un ministro della Repubblica che era imbarazzato perché era timoroso che si trattasse di un agguato. Vabbè. Insomma, vorrei dire che il diritto all'identità è un fondamentale diritto di cittadinanza. Lo rivendico, capisco le esigenze dei buontemponi, però ora basta. Ora basta. Liberarti una cosa. Dimmi. Faccio bene, però ormai. No, ormai fallo. Ieri ero alla Camera, a un certo punto ho parlato con una persona di Sel, il quale mi ha detto: guarda, Nicky, e questo è vero perché io lo conosco anche io da tanti anni, che è un sincero democratico. Vabbè, un sincero democratico. Ma chi dice che non è libertà, democratico? No, che. Ma non far subito la polemica inutile in questo caso. Non è per la libertà di stampa, capisce gli scherzi, quindi nonostante diciamo il danno subito. Ma quale non danno? Vi dov'è il danno per Vendola? Al massimo per Barca lui, può essere il danno. Questo lui ha detto. Beh no, comunque insomma, anche lui un po' male, no, ci può essere rimasto, no? Telefonare. Sì, questo è un fuori di dubbio, no? Sì, certo, per carità. Ma perché sto riferendo questo. Quindi no, non è ma che meno male, meno male che non però tutti hanno l'intenzione. Esatto. Cioè, Vendola, una persona vicinissima a Nicky Vendola, mi ha detto questo, dice: guarda, non ci porterà in tribunale. No, lui non vuole, no, perché è un sincero liberale, dice che comunque che no, ma perché c'è la libertà di informazione, perché ci deve, ripeto, essere anche con questa. Ma ripeto ancora una volta, non è questione di libertà di informazione, la questione è molto semplice. Dice: non voglio mettere il bavaglio a nessuno, ma il bavaglio neanche ai due buon temponi. Certo. Neanche ai due buon temponi. E qui ti dico quello che mi ha detto, poi si può commentare in mille modi, poi si può fare polemica, comunque in questo caso non c'è da fare polemica. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piè, ma lei gira sempre intorno a... Marco da Roma, buonasera. Marco, intanto tutti in Grecia, ragazzi, quelli che amano queste cose, tutti in Grecia, lo dicono i greci stessi. C'è stato l'abbassamento dei prezzi, in più una grande affluenza di prostitute. Se fino a qualche anno fa un rapporto sessuale poteva costare, aspetta, se fino a qualche anno fa un rapporto, no, ma è curioso anche per capire come, cosa succede in Grecia, se fino a qualche anno fa un rapporto sessuale poteva costare 100 euro, sì, adesso ne costa 50, sì, e un rapporto orale addirittura 5 euro. Ma hai fatto bene, perché essendo l'area della Confindustria questa, trattando, certo, di numeri, mi stupisce che però queste riflessioni non vengano fatte a Forum Economia, la trasmissione che ci precede, il paese... cioè il signor Barisoni, che spesso si è occupato giustamente di Grecia, sì, non con la chiave di lettura che lei ora qui ci ha proposto, no? Di Grecia spesso Barisoni ne ha parlato, ma non portando questi dati sensibili che invece lei ci propone alle 20:20. Il paese dove il sesso costa poco causa crisi. Un rapporto orale si paga appena 5 euro, secondo fonti greche molto attendibili. No, ma veramente? Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Ti ho beccato, ti ho beccato. Eravamo con Marco allora, Marco. Il gatto e la volpe mi fanno morire, mi fate veramente morire dalla risata. Allora? Per entrambi. Bene, allora andiamo avanti. Sì, guardi, volevo seguirla sul discorso di Roma che deve fallire. Allora, sì, premetto che sono romano e che mi disgusta questa romanità negativa. Poi c'è tanta altra romanità positiva, per carità, ma questa effettivamente è sotto accusa e mi vergogno per questo. Però se Roma fallisce, che cosa succede in concreto? Succede che chi ha dei debiti, anzi chi ha dei crediti con Roma, li perde. Perché non è che Roma può vendere i propri, certo, beni culturali, che non sono nemmeno propri, ma sono... No, deve vendere le aziende, le partecipazioni alle aziende che ha. Che aziende vende? E che cosa recupera da quelle partecipazioni? Questa ha ragione. Purtroppo, milioni di euro che ha. Sì, amico mio, però se tu hai messo dentro un'azienda 5.000 persone in più di quelle che dovrebbero esserci per farla funzionare male, alla fine questi comunque, devi licenziare. Mettetela via, domani c'è il decreto. Perfetto, arrivederci, ma grazie. Va benissimo, ma questo va benissimo. Ma perché è una vergogna, perché Renzi cala le brache, Renzi cala le braghe. No, sono, ma non è Renzi che cala le braghe, ma questo non è il punto. Il punto è che i creditori, vabbè, perdono i crediti e e i lavoratori se ne vanno a casa. Qui serve un commissario, un commissario per fare cosa? Straordinari, con poteri straordinari, certo, di mandare a casa chi deve andare a casa, cominciando dalla dirigenza, sì, e mantenere i crediti per poterli dichiarare. Vabbè, però sostanzialmente il commissario significa dichiarare il fallimento di Roma, io questo però, intendevo, No, scusa, io questo intendevo. Il fallimento tecnico significa che si atterrano i crediti, discorsi, è una fregatura per tutti quelli che hanno dei crediti. Marco, io sono d'accordo con lei, adesso lasciamo perdere le formule tecniche, quando io parlo... Ah, no, io sono d'accordissimo. È su questo che volevo dire, perché siete significa fallire tutti e ricominciare da capo, è una fregatura. Siete ipocriti. Dimmi perché siamo ipocriti, invece tu sei un genio. Sono un genio. Però fai dell'ipocrisia su questa roba di Roma, anche giusta che hai detto, perché se i romani dovessero domani trovarsi le metropolitane ferme, domani c'è il decreto e si ricomincia tutto da capo, farebbero la rivoluzione, questo è sicuro, perché basterebbero tre Marino giorni non di vuole mollare le municipalizzate, e siamo d'accordo, non le però vuole mollare. Le disfunzioni del sistema non sono solo lì, perché ad esempio, ma che c'entra, stiamo parlando di questo, no, è lo stesso ragionamento. Quei politici che hanno fatto i bonus d'oro ai manager Scaroni, ma che Conti c'entra questo? No, ma quelle aziende vanno bene, no, ma non c'entra bene o male, c'entra che questi signori per mandarli via ci vogliono 15 milioni vabbè, di euro per mandarli via. Vabbè, non c'entra la nulla, politica vabbè. Quando fa queste cose dovrebbe, perché non è soltanto Roma, Roma è chiaramente il punto terminale, ma le nomine fatte dai politici in questi enti, ripeto, bonus d'oro ai signori Scaroni, Conti e Cattaneo, ci costano, se dovessero mandarli via anticipatamente, 15 milioni di euro. Questo ha fatto anche la politica quando ha firmato quei contratti, ha nominato abbiamo queste capito, persone. Abbiamo capito. Brucia Roma, con i romani. Brucia Roma, con i cristiani. Brucia Roma, brucia Roma. Il Parlamento. Enzo, provincia di Caserta. Ma chi è questo che canta? Venditti, ma manco lo riconosci, vergogna. Buonasera. Dimmi. Volevo parlare a proposito di Marino. Da come lei si è espresso sembra che l'unico colpevole sia Marino. No, non ho detto questo, l'ho ripetuto 100 volte. Se non l'ha capito, mi dispiace. Perché è colpa mia. Se non probabilmente è colpa sua. Io non ho detto che è colpa di Marino. Ho detto che Marino fa parte di quella categoria di piagnoni che non, purtroppo non si riesce a superare, e che invece di tagliare, che è contrario alle privatizzazioni, città, altre cose, invece di tagliare, di risparmiare molto più di quello che finora ha fatto, perché dice di aver fatto qualcosa. Ma perché dovrebbe fare una cosa impopolare? Vabbè. Lui batte i pugni, ma scusa, dal suo punto di vista, lui non è che sbaglia, lui batte i pugni. Fai parlare tavolo, Enzo un attimo. Ottiene il decreto, l'hai già e non detto. Deve licenziare vabbè, nessuno. Comunque volevo proprio dire questo, insomma, che siete avvantaggiati rispetto a noi che telefoniamo, in quanto voi avete la parola, la potete gridare e noi ascoltiamo. Ma lei parli Enzo, parli. Sì, ma sì, io sto parlando, volevo dire semplicemente che l'ultimo non può essere il colpevole di 2000 anni di storia, insomma. Vabbè, ma nessuno ha detto che quello è colpevole. Dai, Adriano da Roma, forza. Adriano? Sì, eccolo. Dimmi. Sì, buonasera. No, solo una cosa. È vero che Marino piagne, però con tutto il rispetto, ma che se piagne? Uno non ci stai mai. Io sono romano, Ma non ci sta mai, che vuol dire? Sta sempre lì dalla mattina alla sera, al Campidoglio? No, ma sta sempre in giro, in missioni, tutte riunioni, convention su tutta la medicina, roba varia. È giusto, perché lui non è... Non mi pare, non risulta questa roba un dottore. Qua. Sì, sì, altro che vada, purtroppo vada a chiedere, non è mai presente, mettiamola così. Bah. Tra le tante cose, il problema grosso è che nelle varie municipalizzate o cose varie, sì, amici, tra amici, ok, lì i vertici sono totalmente raccomandati, ok, poi quegli altri si sono adagiati su quello. E un'altra cosa però, solo... Sì, però Adriano, parliamo di cose parziale, concrete. No, di parziale giustificazione. Io lavoro in un'azienda che c'ha a che fa col comune al 51%. Quando però ci sono le manifestazioni, le proteste e tutto il resto, si viene a Roma e quando bisogna poi fare i servizi, la municipale, la polizia per fare tutta la gestione, sì, la pulizia. Allora? No, Cruciani, sono io il primo d'accordo con lei che dà... No, ma non ho capito dove vuole andare a parare. Adriano, mi faccia un ragionamento concreto. Che una cosa serie, vuole dire? Una serie di costi che sostiene il Comune di Roma sono di carattere nazionale, perché in caso di proteste e roba varia... Vabbè, polemica vecchia questa, cosa vecchia, Mario da Livorno, Mario da Livorno. Pronto, buonasera a tutta la Zanzara. Dimmi, Mario. Volevo fare complimenti all'esorcista Cruciani. Ma io non faccio l'esorcista, quello è padre Amort, veramente. Prego? Quello è padre Amort, io non faccio l'esorcista. Ma ci riesce a tirare fuori il peggio da tutti. Non lo so, allora? Cioè, lei mi paragona a un esorcista. Ma non me ne frega niente dei complimenti, Mario. Serafino da Ravenna, dai. Va bene, allora, senti, io non è che faccio complimenti, perché lei a volte è molto cinico. Senta, o parla o non parla, due sono le cose. Ma ha detto, faccio l'esorcista, va bene, ho capito. Vabbè, non diciamo che la mamma del cretino è sempre pregna. Sì, sempre incinta, no? Sì, sempre pregna. Bella sta cosa, la madre del cretino è sempre pregna. I suoi ospiti, anzi, quella gente lì, sono persone, insomma, come sono? Che mi riesce a tirare il peggio. Vabbè, Serafino da Ravenna, dai, mi sono rotto le scatole. Serafino da Ravenna. Serafino, amico mio, dimmi. Lei 10 minuti fa ha letto una lettera di un anonimo. Sì. Che insultava la sua trasmissione. No, non insultava, non ho mai detto questo. Non criticava. Sì, criticava. Devo averla sentita una volta, perché con uno pseudonimo, ecco. E soprattutto allora, lo attaccavo non perché non si possono esprimere critiche, per carità, ma uno si firma, no? Si manifesta, ma questa qua è un'abitudine allora, molto diffusa. Io l'ascolto da circa 2 anni, dal periodo, sì, del governo Monti. Prima ascoltavo Zappin, sì, ho cambiato, sì, e l'ascolto quindi molto spesso, mi firmo. E volevo dire che condivido tutto quello che ha scritto quel signore. Sì, bene. Per un motivo che, se vuole, in 10 secondi glielo spiego. No, prego, siamo qui. Ecco, è una questione estetica. Estetica, sì. Intendendo, qui ci sono i 10 secondi perché altrimenti in Italia, intendendo per estetica quel senso di valore delle cose, quel senso dell'opportunità, il modo di comportarsi, ecco, quella percezione che in ciò che si dice... con ciò che si dice si possa generare un valore. Ecco, quando c'è valore c'è senso estetico, quando invece si investe sul peggio degli esseri umani, come l'ha detto il radioascoltatore precedente, si va sotto il livello dell'estetica. Bene. Lei, Cruciani, sì, si salva, ed è il motivo per il quale io continuo ad ascoltarla, si salva per un motivo, sa? che è quello che quando c'è uno che la vuole insultare, come sto il telefonista che mi ha passato la linea, lei vuole insultare Cruciani, pronto, si fa piacere. Ecco, questo in effetti la salva, perché lei, dopo aver prodotto un livello bassissimo, permette di criticarla, ed è il motivo per il quale si salva. Bene. Però il livello sul quale lei investe è degenerativo. Degenerativo, certo. Che noia. Io penso così. Però, per carità, io mi annoio i peggiori degli esseri umani. Mi annoio profondamente. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Why don't you go? Enrico Lucci alle prese con Maria Elena Boschi, ministro delle riforme. Il vero successo se sta sudando la guancia è la nuova bellissima ministra per i rapporti col Parlamento. Oh, Amarie, sei una figa strepitosa. Oggi ammazzate. Dai, oggi ma perché ti hanno messo proprio ai rapporti col Parlamento? Ai rapporti con i membri del Parlamento? Come pensi adesso di cavare? Ah, scusa, c'hai ragione, oggi è una cosa esagerato. Non mi molesti moschito. Esagerato, mitico Lucci, sei una figa strepitosa. Non mi molesti. Poi con la Madia anche, così la Madia. Why don't you go? T'hanno messa la semplificazione, porca miseria, e te sei complicata la vita. All'ottavo mese di gravidanza. Ma come fa a allattarlo, mo? Se te esce, tiri fuori a zinetta in Parlamento. Per la cui sostituzione. Ma perché l'hanno fatto ministro proprio a te e non a me? Mi offro, perché c'hai la pancia, pure io, volontario. Guarda la pancia, perché tu ministro e io no. Maria? Ciao, a presto. Non mi molesti moschito. Ciao, a presto. Non mi molesti. Ciao, a presto. Però è gentile. Non mi molesti. Marianna Madia in un film. In un film Pazzi di me. Del regista Fausto Brizzi, ha fatto un piccolo cameo. Senti cosa dice. Gli uomini sono esseri inferiori, è vero, ma non sono tutti sbagliati. Sono sbagliati finché non troviamo quello giusto per noi. E se io non ci provo davvero, non lo troverò mai. Grazie a tutte. Grazie. Tanto torna, tornano tutte. Torna, tornano tutte. Ma scusami, adesso ho visto che gira oggi in rete questa roba qui. Ma perché ad esempio qualcuno si stupisce, no? Ha recitato anche no, un film. No, ma lo sai qual è il punto? No, qualcuno lo ha scritto. No, esempio, ma no? Va a recitare un sì, film. Sì, del ha produttore, fatto... d'accordo. Beh, scusami, abbi pazienza. Il produttore che è il suo fidanzato, compagno, non lo so, non mi interessa. Uno dei produttori. Ma, uno ma dei produttori. Sei influente, no, però. No, ma non è influente. Uno dei produttori. Uno dei produttori è il marito. Vabbè, si chiama Mario Giannani. Mario Giannani. E il film della ministra Madia in cui partecipava all'epoca non era ministro ovviamente appunto è stato pagato con i soldi pubblici, basta, con soldi parte. Vabbè, ma non è che lei, ma mica l'avrà no, pagata per fare la comparsa, cioè, questa è una stupidaggine, questa è, stupidaggine. È la relazione, no? Questa è una no, questa è una stupidaggine, cioè, è sponsorizzato dalla Regione Lazio, basta, io dico solo questo. Vabbè, ma questo lascia stare, che non sarà mica l'unico film che è stato finanziato con i soldi pubblici, ma no? Senti invece, cioè, una cosa strepitosa, è un prete di Montegrazie. Però scusa, mandiamo anche un pezzo del film Ecce Bombo, l'hai mai visto tu? Ma che c'entra di adesso? Nanni Moretti, dove c'è uno strepitoso Minzolini che fa la comparsa lì, ad esempio. Ma che c'entra Minzolini? Rimandiamolo oggi una volta. Ma la che vuol dire Minzolini? Minzolini che c'entra adesso, Minzolini? Ha fatto anche adesso, lui la comparsa. Ecco, beh, appunto, no? Scusami, è un amico nostro, ma ha fatto la comparsa anche lui ma in un film in passato. Ma l'abbiamo mandato mille volte e poi tanto non credo che parli. Ha quel fatto film. La comparsa in un film in passato, sì. Allora, a Montegrazie c'è un prete che si chiama Arrigoni. Ha fatto scandalo questo parroco, padre Walter Arrigoni, Montegrazie, frazione d'Imperia, perché sostanzialmente ha detto, è un foggiano che è tornato a Foggia, a un certo punto ha voluto dire, ragazzi, poi Foggia è quello che è, ci sono i problemi che ci sono, ma guardate che a Montegrazie, dove so io, dove sto io, in un paese che è una frazione d'Imperia, in un posto che magari uno può considerare immune da certe cose, ci sono tossicodipendenti, ci sono stati 4 suicidi, ci sono, ed è arrivato anche un pedofilo. Io poi vivo in questa situazione molto interessante, perché pur essendo piccola Montegrazia, questa frazione di Imperia, 97 residenti, ecco, al di sotto dei 60 anni sono coppie non sposate né in chiesa né in comune. I bambini, pochissimi che ci sono, non sono battezzati. Ma è un'umanità vera, che ha delle domande. Why don't you go? È un'umanità drammatica, perché in 10 anni ci sono stati 4 suicidi, 1 omicidio. Ci sono tossicodipendenti, alcolizzati, ma anche fra le ragazze giovani dai 16 ai 20 anni. Montegrazia è piccola, ma è interessante. C'è una mia carissima amica, Giannina, che dice, non, visto che il pedofilo è stato, e c'è anche un pedofilo, ah, infatti mi dice da un mese e mezzo, un insegnante di musica, e lei mi guarda e mi dice, Walter, noi non ci facciamo mancare niente. In piccolo c'è tutto. Foggia 180.000 abitanti, ma ci sono le stesse cose. Beh, la cosa clamorosa adesso probabilmente è un fatto noto. È un fatto noto. Però è arrivato un pedofilo, ha detto. È arrivato un pedofilo, non ci facciamo mancare niente, Montegrazia, sì, frazione di Imperia. È arrivato pure un pedofilo. Ora, è una, o è una vicenda nota, oppure insomma, è abbastanza strano, no? Sì, no, infatti, tu dici che è nota? Beh, non lo so, cioè, se l'ha detto, lo fosse, se, sarebbe una, come dire... Beh, se non fosse noto sarebbe clamoroso, sta denunciando, dico, sta è arrivato un pedofilo, ha detto. Ma sì, che così vuol dire? È un pedofilo sarà dichiarato? Noto lì, immagino, un pedofilo che è uscito di galera? Non lo so. C'è uno che è stato in galera per pedofilia. Ma tu manda l'audio alla procura, che te... Ma sì, denunciamo tutto. Denunciamo tutto. Guarda, denuncia tutto. Giulio da Verona. Ciao Cruciani. Dimmi. Il pedofilo, se lo castri, diventa tutto come una pecorella. Vabbè, ferma, se castri, tutto. Perché c'è? Scusa, che è successo? Ferma. Mi è appena arrivato un messaggio adesso, attento, Dimmi. Di un signore che si chiama, un amico, Valdo Gamberutti, sì, che è a sì. Milano, sì. E dice, sto ascoltando in taxi, se mi chiami ti passo il tassista che vuol mandare a quel paese Cruciani. Benissimo, appena chiamalo. Chiama Gamberutti, fatti. Chiamo fai. Gamberutti, allora, dal mio telefono, quindi Gamberutti, non fare come l'altra volta il signor Lenzi, ti prego, che, no? Diciamo però, allora, ti chiamo al cellulare. Vabbè, tu intanto chiama Giulio da Verona, voce, facciamo passare giù, metti in viva Gamberutti, voce tutto. Gamberutti Valdo. Posso? Sì. Dimmi Giulio. Ascolta, no, volevo dirti, relativamente a Roma, io sono rimasto tutto scioccato quando ho visto Marino che ha replicato le iene che gli facevano diretta, notare come nei comune beggiavano e uscivano. Allora, un sindaco che ti prende per il culo in quel modo, perché ripeteva il ritornello a ogni domanda che gli faceva l'inviato, vuol dire che a lui fondamentalmente di risanare il pubblico non gliene frega una mazza. Per cui è giusto, come dici tu, che fallisca Roma, però verrai deluso come sottoscritto, vedrai che Roma non fallirà. Ma no, domani gli danno i soldi, domani gli danno i soldi. Bravo, gli danno. Per cui ci prendono tutti per il culo. Anche lì, quando tu licenzi uno che beggia se ne va via, il giudice del lavoro fatalmente poi lo reintegra nel Bravo Giulio, lavoro. Parenzo, sei in, bravo, sei in contatto col tassista o no? Sono in contatto con Gamberutti, che è in diretta sul mio viva voce del telefono. È un amico di Parenzo Gamberutti, autore, no, televisivo. È un autore televisivo. Vabbè, amico, ecco, mio. Se no la gente non capisce. Vabbè, certo. Eccoci qua. Fai la cronaca di dove sei, caro. Allora, mi trovo nel taxi Genova 29 guidato dal signor Lorenzo, sì, che desidera comunicare con voi, quindi... diciamo, mi sì faccio l'attore di questo. Bravo, il signor passa... Lorenzo, non Lorenzo Mieli, però passa il cellulare, stai no zitto, passa sto cellulare. Passo subito. Sì, sì, perfetto. Eccoci. Prego, pazzesco. Eccoci qua, pronto. Allora, caro Lorenzo, Lorenzo, dimmi. Caro David, volevo dire al Cruciani un po' pelosetto, bravo, per il fatto dell'attacco che fa Marino. Abbassa la radio, numero uno. Lo so, perché sennò ci sentiamo tre volte. Abbassa, caro, vai. Abbasso. No, dicevo appunto al signor Cruciani, sì, di ricordarsi ogni tanto di ci sono stati 5 anni di Alemanno che lui non ricorda per niente. No, io non ho attaccato bravo, Marino, amico bravo tassista, non ho attaccato Marino. Bravo, ho detto... il tassista, fai parlare il tassista. Fai parlare il tassista e vergognati. Fai parlare il tassista di Milano, che ne sa più di te. Ho fai detto il che il dissesto ha radici antiche, perché tutti hanno mangiato a Roma, centrosinistra e centrodestra, tutti hanno fatto debiti. Forse Rutelli si è salvato per un po' di tempo. Ma il problema fondamentale è questo: ci sono aziende in dissesto, persone che non dovrebbero stare lì e che stanno lì. Raccomandati di ferro che sono stati assunti, eccetera, eccetera, eccetera. Non è certamente colpa di Marino, su questo non c'è il minimo dubbio, caro tassista. Non ci sta più ascoltando. No, ma il tassista ti sta dicendo? Vai tassista numero di sinistra, tassista di sinistra anche prima, vai. Adesso sono diventato il tassista di sinistra, no, dicevo che lui alliscia sempre il pelo, se bravo, possibile, mettendoli in maniera simpatica, i destrorsi, no? I cattari, li mette sempre in maniera ma non simpatica. È vero. Sì, ci dà come un fabbro ferraio, e quindi è solo questo. Crucia, cantiamo insieme anche lì dal taxi. Cruciani, fascista, sei il primo della lista. Dai, Cruciani, sì, fascista, sei il primo della lista. Ma no, non è vero, su, dai. Sto guidando con una mano, ti ripasso il... No, scusami, scusami, scusami, tassista di sinistra, tassista. Adesso mi ha rimbalzato il telefono. Comunque grande polemica politica la zanzara. No, però scusami, Gamberutti, ripassami di nuovo il tassista. Ma sta guidando però. Guidato, vabbè, adesso è un semaforo, signor Lorenzo, Cruciani per lei. Chi è quella voce di donna in macchina però? Allora, allora Lorenzo, scusi un attimo, ma qualcuno dice che l'assassino, quello che ha ammazzato il tassista, il suo collega, è stato un po' provocato e per questo è stato scarcerato. Lei che pensa di questa vicenda? No, sicuramente, magari se gli ha detto cretino, stupido, figlio di puttana, è giusto ammazzarlo. Secondo me ha fatto benissimo, anzi doveva squartarlo lì in strada e mettere giù anche le viscere, perché è così una bella giustizia sommaria, bella grassa, è quello che ci vuole, no? Bravo, bravo, questa ironia mi piace, però questa volta in questa maniera ha dimostrato già tutta la sua intelligenza. Però è stato scarcerato subito, subito scarcerato. Sì, anche perché da omicidio volontario è stato preterintenzionale, quindi è fuori di galera, ma va benissimo lo stesso, tanto che sia un tassista di 68 anni con gli occhiali, non so se hai visto le fotografie, il collega faceva più o meno il nostro turno, quindi un uomo un po' in sovrappeso e tutto quanto, con lui un super energumeno di 51 anni, ha fatto benissimo a comportarsi così. Pare che anzi sia stato il tassista a dare una forte testata alle bottiglie e si è autosuicidato. Scusa Lorenzo, scusami un attimo, ma secondo te il fatto che sia in libertà, adesso non so, forse gli hanno dati domiciliari, adesso non mi ricordo bene, comunque è stato scarcerato. Il fatto che sia in libertà, voglio dire, la giustizia fa il suo corso, penso che non possa né inquinare le prove né scappare, niente. Vede, a questo punto il morto è morto, non è che seguirà ma non è che voi tassisti, non è che voi è diventato preterintenzionale. Adesso io non sono un avvocato, ma mi pare che sia normale che aspetterà i gradi di giudizio a casa sua, visto che poi deve diventare papà fra qualche mese. Scusa un attimo, ma non è che qualche tuo amico tassista si fa venire qualche idea strana di andare a pizzicare questo qua, no? No, io mi auguro che l'intelligenza rimanga ancora ben viva nella testa dei tassisti, perché di queste cose qua non penso che ci sia bisogno, perché sai, il detto occhio per occhio fa diventare tutti e due ciechi, certo, e basta. Scusami, non è giustizia. Lorenzo, dove stai portando il signor Gamberutti? Ma chi violiamo, se ne frega, la privacy completamente. Grazie a Gamberutti. Non so se sono autorizzato a dirti sì, dove stiamo andando. Sì, certo, sì, sei autorizzato. Dove? Andiamo probabilmente in un ristorante. Ah, Lusone 6 a Milano. Ristorante. In un ristorantino, la sinistra, l'autore di sinistra va in un ristorantino. Il ristorantino chic, bravo. E io pago, no, veramente non pago. No, io, no, paga lui che io pago. Grazie, Matteo da Roma. Ciao, evviva Lorenzo, questo ti abbraccio. Taxi di sinistra meraviglioso, ciao compagno. Ma non è di sinistra, chi di vota sinistra. Lei, Lorenzo, chi vota? Ma ho chiuso la telefonata. Hai chiuso, so. Matteo da Roma. Matteo? Pronto? Sì, dimmi. Sì, dimmi. Buonasera. No, io ho chiamato perché oggi sentivo la trasmissione e sentivo dell'assenteismo dell'ATAC e non so quante migliaia di persone assenteisti all'ATAC. Io, come tantissimi nostri colleghi, sono autista ATAC e ho 80-90 giorni di ferie regresse degli anni scorsi e avrò fatto all'incirca 5 giorni di malattia durante tutto l'anno. Come facciamo ad andare avanti con un lavoro del genere e chiedere un giorno di ferie per riposarci, sempre puntualmente negato perché siamo sotto organico? E poi ci sentiamo dire sì, ma perché siete sotto organico, scusi, con 12.000 dipendenti? Perché molte persone si vengono assunti come autisti e poi passano ad altre mansioni. No, gli autisti non vengono assunti all'ADAC, gli unici che non vengono assunti sono gli autisti. Vabbè, Matteo, perché ci ha scritto lei, scusi, perché ci ha chiamato? Abbia pazienza, qual è il motivo? Cioè, il motivo fondamentale qual è? Che lei dice... Il motivo fondamentale è che non possiamo lavorare 365 giorni, compreso Natale, per agosto, e chiedere un giorno di ferie e essere negato. Poi ci viene a dire vi mettete in malattia. Uno a un certo momento come fa tutto l'anno a lavorare? Cioè lei sta dicendo che lei si mette in malattia apposta per prendere i giorni di ferie? No, per prendere i giorni di ferie. A noi ci viene proprio detto, le ferie non si possono dare. E allora? Agire in maniera diversa. Ah, vi viene consigliato di mettervi in malattia, se volete le ferie. Cioè, se volete andare in vacanza. Se volete andare in vacanza, non si va in vacanza in malattia. Noi chiediamo di riposare. Vabbè. Ho capito, Sandro, provincia di Roma. Se uno vuole un giorno di riposo, di riposo, gli viene detto se puoi riposare mettiti in malattia, perché non si possono dare ferie, siamo sotto organico. Pensate, ma quale sotto organico? Ma Sandro, provincia di Roma. Pronto? Cruciani, sì, posso parlare? Sì, dimmi. Allora, a proposito del comune di Roma, degli sperperi nella gestione Alemanno, gli faccio presente una chicca. Assunta Alemanno un suo capo di gabinetto a 1000 euro al giorno, sarebbero 360.000 euro l'anno. Una vergogna, certo. Il suo capo di gabinetto. Poi gli dico una chicca anche a proposito della giunta Marino. Pensi che gli assessori, zitti, si è scoperto quest'anno, si spartivano circa 5 milioni di euro l'anno si spartivano, in che no? Senso, scusi, secondo loro per curare le loro circoscrizioni, però il consigliere Riccardo Maggi, vabbè, però andiamo troppo nel dettaglio qui, bada al sodo, ha fatto scoprire tutti che questi 10 milioni non si spartiscono più. 5 milioni, si 5 ogni milioni. Giunta si spartivano circa 10 milioni l'anno. Zitti si spartivano. Ma ci pensa, signor Cruciani? Lo so, Sandro. Rispetti al comune di Roma? Ma ce ne sono tanti altri. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Radio 24. La passione si sente.